Vendo tutto di Matteo Caccia. La racchetta da tennis, il trapano, il computer e il cellulare, la videocamera, la fotocamera, il divano, il tappeto, il forno a microonde e la scrivania, la bicicletta e il set di valigie. Tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo la mia Vespa. Sono le 16:07, anzi quasi 8, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e oggi, ve lo devo proprio dire, è veramente dura. Ho fatto un po' lo spavaldo, mi sa, in queste prime 2 settimane. Tranquilli, ragazzi, liberatevi delle vostre cose, che è un bel modo per alleggerirsi. Poi, stamattina, quando ho caricato, come faccio tutte le mattine sul profilo Facebook, che è Matteo Caccia Vendo Tutto, la foto della Vespa, hanno cominciato ad arrivarmi messaggi quasi subito di persone che mi dicevano: no, ma la Vespa no, ma la Vespa non puoi. E io: sì, la Vespa sì. Però piano piano cominciavo a dire: la Vespa, perché allora ad oggi facciamo un attimo un punto della situazione. Allora, ad oggi abbiamo venduto la bottiglia, la chitarra è scaduta un attimo fa, quindi abbiamo venduto sia la bottiglia che la chitarra. Adesso non ricordo il prezzo della chitarra, però non c'è più su eBay, quindi mancano ancora in vendita, sono la tenda da campeggio, mancano esattamente 22 ore, quindi scade domani ed è 19,50. Ragazzi, vi assicuro che è al di sotto del prezzo d'acquisto, ma alla grande, ed è praticamente nuova. Abbiamo poi la penna stilografica, l'iPod, la cerata, l'avvitatore, la racchetta da tennis e le catene da neve. E se andate su eBay in questo momento, vi ricordo che potete passarci dal sito di Radio 24, quindi radio24.it/vendotutto, comunque c'entrate, trovate la home page di Vendo Tutto, da lì potete andare su eBay e la Vespa ha già un'offerta. Eh sì, perché la base d'asta per la Vespa è come al solito bassa, anche se vi devo dire, visto per farvi capire quanto è difficile effettivamente oggi liberarmi di questa Vespa, che per la Vespa per la prima volta abbiamo deciso di mettere un prezzo di riserva. Cioè, che cos'è il prezzo di riserva? È un prezzo sotto il quale io la Vespa non ve la vendo. Nel senso che va bene tutto, però non è che posso proprio sdare via tutta la mia roba. Quindi la mia Vespa è in vendita, andate su eBay a vederla, è bellissima, è blu e adesso ve ne parlerò. Però prima di cominciare, visto la situazione difficile che effettivamente oggi sto vivendo per la prima volta da 2 settimane a questa parte, io oggi ho bisogno di voi. Ho bisogno di chiunque abbia venduto di recente qualcosa, qualsiasi oggetto. Mi dite come state? Perché di fatto io la bottiglia e la chitarra sì, le ho vendute, ma sono ancora qui perché aspetto il pagamento. Quindi in realtà io la roba non l'ho ancora venduta, cioè ce l'ho qui. Quindi vi chiedo, se avete venduto qualcosa recentemente, mi chiamate e magari mi dite: guarda, ci si sente meglio. Fate quello che ho fatto io in questi giorni. 800240024. Qualsiasi cosa abbiate venduto che fosse vostra, che vi apparteneva, l'avete venduta e magari adesso siete un po' più sollevati. Forza, 800240024. Altrimenti io la Vespa oggi faccio una gran fatica. Oppure un SMS al 349. Non capisco se ogni giorno perdo delle diotriosi, rimpicciolisce il numero. 349 238 6666 per gli SMS, ma preferirei sentire la vostra calda voce che mi dice: guarda, ho venduto la mia macchina e sto meglio. 800240024. Mi è arrivato il momento. La Vespa, per vederla il sito radio24.it, per ascoltare la storia. Pronti, via. La Vespa. Vespa PX 150 arcobaleno, colore blu, anno 1992. 4 marce, 73.000 km. Motore sempre curato e completamente rifatto, serbatoio benzina e olio con miscelatore separato, tenuta perfettamente. Ottima per la città e per viaggi estivi di coppia. Valore commerciale 1.200 euro. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800240024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Io sono uno che va in motoretta. In una città come Milano, prendere i mezzi è comodo solo se i tuoi orari sono quelli degli uffici, mentre girare in auto vuol dire almeno decuplicare i tempi di trasferimento. Attenzione, non è che sono un appassionato di moto, di quelli che la tengono in garage, bella, linda, e la tirano fuori la domenica per farsi un giro al lago. No, io ho sempre usato la moto per muovermi, e non tanto per il gusto di usarla. Che poi, a dire la verità, più che moto vere e proprie, ho sempre avuto motorini e scooter. La mia Vespa, quella che vendo oggi, è stato il mio secondo mezzo di trasporto su due ruote. Il primo era un motorino che andava per la maggiore nelle zone di provincia in cui sono cresciuto. Si chiamava 50. Era una sorta di biciclettona con quattro marce. Per chi se ne intende, era un'evoluzione del Califone, però un po' meno tamarro. Me lo regalarono i miei per i 16 anni e io l'ho usato tutti i giorni per 5 anni, ininterrottamente. Quando poi, come sempre accadeva con quel motorino, ho cominciato a vergognarmi di andare in giro con il 50, l'ho venduto ad un signore del mio paese che lavorava in campagna e lo usava per andare ad allagare le risaie. Avevo poco più di 20 anni e volevo a tutti i costi una Vespa. Non particolarmente ricercata, non una Vespa d'epoca, semplicemente una Vespa. Le ruote piccole, lo scudo per le gambe e la sella lunga. Un mezzo con cui poter fare anche dei viaggi lunghi, per andare oltre la provincia. Allora, un giorno andai nel negozio del mio paese, quello che vendeva biciclette e motorini ovviamente, e ordinai il modello più bello che ci fosse. Una Vespa PX arcobaleno 150 di cilindrata, in modo che potessi usarla anche in autostrada. Colore blu. Ho aspettato 2 settimane e poi sono andato a ritirarla. Era mattina, era autunno ed era ancora caldo. Ci sono salito sopra, l'ho accesa e sono uscito dal cortile del negozio. Il rumore che faceva quel giorno è lo stesso che fa ancora oggi. L'unica cosa che da allora è cambiata è la sensazione che provo quando metto la prima e parto. Mi spiego. Quando una cosa la usi tutti i giorni per anni, quasi smetti di considerare la forma che ha, il rumore che fa, il modo in cui funziona. Queste cose invece all'inizio sono tutto. Cioè, la prima volta che sali su una moto, o una macchina nuova ad esempio, quasi ti dimentichi che sono dei mezzi di trasporto e quindi noti tutte le piccole cose, tipo il rumore che fa, la perfezione della carrozzeria, il modo in cui entrano le marce. Se è una macchina addirittura senti l'odore che c'è all'interno. È un po' come quando conosci una persona che ti piace, no? E all'inizio noti, che so, come si muove, come si tocca i capelli, i termini che usa. E poi dopo un po' di tempo diventa semplicemente una persona che cammina, si pettina e parla. La mia storia con questa Vespa dura dal 92 e finisce oggi, giorno in cui la metto in vendita. La nostra però non è stata una storia continuativa, ad un certo punto si è interrotta e poi l'abbiamo ripresa. Sì, perché qualche anno fa ho comprato una moto un po' più veloce, un po' più moderna. Non aveva le marce, aveva le ruote più grandi, insomma era più comoda, però era pure più noiosa. Finché un giorno, anzi una sera, me l'hanno rubata. Io sono entrato in un locale, sono uscito e la moto non c'era più. La usavo da 5 anni e mi ero quasi dimenticato della mia vecchia Vespa PX, quella che tenevo nel garage a casa dei miei. Allora, con un briciolo di senso di colpa, sono tornato a casa, l'ho liberata dal telo che la copriva, ho tirato l'aria e ho dato un colpo di pedale. E la storia è ripartita. È bello riscoprire le cose che avevamo quasi dimenticato di avere. Rimettersi ad utilizzarle, quindi dover imparare da capo tutti gli automatismi, i piccoli trucchi che servono per governarle. È bello perché ci racconta un po' chi eravamo quando le abbiamo dismesse e un po' chi siamo ora. Sì, perché a riprendere in mano a quasi 30 anni, questa Vespa mi ha insegnato innanzitutto a rispettarla di più. E poi a moderare la velocità, a valutare con maggiore attenzione gli spazi per frenare o i tempi per raggiungere un luogo. Sì, ho quasi imparato a godermi il tragitto. Accensione, prima, seconda, freccia a sinistra. Terza, un colpetto di clacson, scalata la seconda, di nuovo la terza e quando la strada è abbastanza dritta e libera, pure la quarta. Insomma, non so se l'avete capito, ma io adoro questa Vespa. E se davvero non avessi deciso di vendere tutto, ma proprio tutto, mi sa che me la terrei. Però, niente, ormai ho deciso ed è inutile tergiversare. L'ho usata soprattutto qui, in città, a Milano, ma anche in giro, un po' per l'Europa e poi per l'Italia. Ci ho fatto un sacco di chilometri, oltre 70.000, di cui gli ultimi 3.000 in vacanza, insieme a Giulia, la mia ex, la scorsa estate in giro per la Sicilia. Ci siamo imbarcati a Genova su un traghetto che in quasi un giorno di navigazione arrivava a Palermo. Da lì abbiamo girato tutta la zona occidentale, Scopello, Trapani, Sciacca, Marsala, Favignana, San Vito Lo Capo e poi Pantelleria. Inutile dire che la differenza tra una bella vacanza e una vacanza meravigliosa come quella dell'estate scorsa l'ha fatta proprio lei. Non Giulia, ovviamente. No, la mia Vespa. E non si tratta solo del caldo che avrebbe fatto in macchina o del fatto che i trasferimenti in auto avrebbero amplificato il silenzio che calava tra me e lei dopo ogni discussione. No, il merito è stato soprattutto dell'aria che mi arrivava addosso ogni volta che ci mettevamo in strada. Lo ammetto, all'inizio è stato un po' difficile. Cioè, usare la Vespa in città è un conto, però mettersi ad affrontare un viaggio con dei bagagli in agosto sulle strade del sud Italia è piuttosto stancante, un po' per il caldo, un po' per la pressione dell'aria e anche per la posizione che non è proprio comodissima. Eppure è stato come uscire da una palla di vetro, una bolla sottovuoto. Perché abituato come ero al clima costante dell'aria condizionata, no? Quella che c'è negli uffici, negli appartamenti, nelle auto. Ecco, trovarmi investito da fiumi di aria, calda dell'asfalto prima, poi rinfrescata dalle piante ai bordi delle strade, poi di nuovo rovente, sentire l'odore degli agrumeti, prendersi la pioggia in faccia, è stato come essere risvegliato da un torpore. Sentire il mondo che ti viene addosso mentre tu gli vai incontro su questa Vespa è una sensazione che mi porterò dietro, anche quando questa Vespa non ce l'avrò più. Ecco perché, nonostante tutto, nonostante la storia interrotta e poi ripresa, nonostante il mondo che ti viene incontro e il mio amore per lei, questa Vespa è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 1200 euro, ma la base d'asta qui sono 99 centesimi. Radio24.it per vederla. Per tutti quelli che invece vogliono raccontarmi dell'oggetto che hanno venduto e consolarmi, 800240024. 16:21 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e i messaggi che vi chiedo di non mandarmi sono questi. Mia moglie ha dovuto vendere il cavallo, ma dopo depressione e pianti, per fortuna, è tornato. Medita prima di vendere. Ciao Matteo, io in realtà vi sto chiedendo di aiutarmi a vendere questa Vespa. E anche 349-238-6666 non è un mercato. Quindi mi fa piacere, Sergio da Milano, che tu vendi la tua Prince NSU del 71, 70.000 km originali, 5.000 euro trattabili. Però non è questo il luogo in cui mandare messaggi come questi. Ho venduto la mia splendida chitarra Ovation in novembre per chiudere con la musica e la mia band. Alberto, bravo Alberto, 800240024, andiamo da Stefano che è qui a Milano. Pronto Stefano? Sì, pronto. Ciao, buongiorno, come stai? Buongiorno, abbastanza bene. Stai meglio dopo aver venduto la tua? La mia moto, ho preso una Ducati Monster, l'ho comprata un po' come reazione dopo essere stato lasciato da mia moglie dopo 7 anni di matrimonio. E ti sei dato sta botta, invece che vendere tutto hai deciso di comprare tutto tu, Stefano. Ma sì, è sempre stato, diciamo, un mio sogno quello di avere la moto, l'ho avuta da giovane, poi dopo sposandomi, avendo un figlio, ho preferito non averla più, non tenerla più per non rischiare, per non avere problemi di coscienza. Ok, quindi tu l'hai comprata. Sei stato lasciato e l'hai comprata e l'hai tenuta per quanto? L'ho comprata, sì, come reazione è stata quella di comprarmi questa moto, ma finché l'ho tenuta era un peso, la vivevo un po' come un peso. Quando me ne sono liberato, dopo un annetto circa, sono stato meglio, guarda. Ah, dopo un annetto addirittura? Cioè, sì, sì. Ok, va bene, quindi insomma devo pensare di metabolizzare a lungo questa separazione. No, sono stato bene, l'ho tenuto un annetto. Ah, Dopo un annetto, ok. L'ho venduta. E stai meglio, ti ringrazio, Stefano, va bene. Sono stato meglio. Ti ringrazio, magari dopo questa sentiamo gli altri, dopo questa mi sento già un po' meglio. Buona giornata, grazie. Va bene, anche a te, ciao. Andiamo a Vicenza o provincia. Tatiana, pronto? Sì, pronto, ciao Matteo. Ciao Tatiana, come stai? Beh, abbastanza bene, dai. Ti ringrazio. Allora, ti ringrazio, magari se mi dicevi anche tu come stai. Tu stai male, lo so già, te lo dico io che stai malissimo e sarai male ancora per un bel po'. Perché Tatiana? Perché ti dico, io ho rottamato la mia bellissima Shadow 100, cioè uno scooter. Che cos'è? Ah, ok. Piccolino, sì. Per prenderne uno più bello, più grosso, un 300. Ho fatto la patente, tutta euforica, eccetera. E sto meglio adesso che è da una settimana che è arrivata, perché ho la moto nuova. Altrimenti stavo malissimo. Dopo 10 anni ho dovuto abbandonare la mia bambina. Senti, ma scusami, da quant'è che l'hai rottamato proprio lo scooter? L'ho rottamata. Beh, però rottamarlo è orribile effettivamente. Esatto, cioè, anche solo dirlo, rottamato, sì, è veramente brutto. Sì. Cioè, preferisco che abbia qualcun altro la mia Vespa piuttosto che non rottamarlo. Ma non mi passava niente. Non ti passava, ok. Esatto. Va bene, insomma, quindi la soluzione sarebbe comprarne un'altra, però ho deciso di vendere tutto e quindi semplicemente me ne libererò, Tatiana. Però ti ringrazio per l'appoggio e per avermi chiesto come stavo. Ciao Tatiana, ciao, grazie. Ciao Crepi. Andiamo a Lodi, Gabriele, pronto? Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a te, Gabriele. Dimmi tutto. Riassumo molto brevemente. Vai. Aspetta Gabriele, aspetta, guarda, ma sei in macchina in questo momento e ti stai muovendo? Sì, così. viva voce. Bravo, stacca il viva voce, sentiamo se va meglio, altrimenti ti dobbiamo salutare. E mi fermo. Ah, perché stavi andando pure. Eccomi qua. Eccoti qua, dicevamo Gabriele, al volo. Ho avuto una storia in breve come quella con la tua Vespa, un oggetto tanto desiderato, acquistato, sì. Ho avuto la mia storia d'amore, non facevo il suo servizio, l'ho voluto tenere a tutti i costi. Scusa, che oggetto era, Gabriele? Devi dircelo. Parliamo di un telefonino, banalissima cosa. Ok. Famoso telefonino con una mela dietro. L'iPhone, possiamo dirlo, tanto non c'è nessun problema. L'ho scoperto, l'ho sempre voluto, me lo son preso. Ho scoperto che fa un sacco di cose oltre che telefonare. Sì. Però alla fine faceva bene le altre cose e male quella cosa che doveva fare, cioè telefonare. E l'hai venduto? L'ho venduto e mi mancano tante cose, ma sono contento perché ti posso chiamare. Ok, perfetto, altrimenti non ce l'avresti fatto. Insomma, però c'è sempre. Però c'è sempre un po' di che in fondo un pochettino nostalgia. Esatto, esatto. Perché niente è come lui. Va bene. Gabriele, ti ringrazio molto. Buona giornata. A te buon pomeriggio. Ciao, ciao. Giuseppe a Lucca. Pronto? Ciao. Ciao Giuseppe. Ciao, dammi una mano. Io te la do al contrario, cioè? Pensaci a rivenderla, ecco, ti manca poi. Io ne ho avute due di Vespe, una 50 Special e una 125 Primavera. Ti posso dire che il 50 Special, sentendoti parlare tuttora, mi manca, che l'ho venduto. Quanto tempo fa l'hai venduto? Si parla dell'88, 87. Ah, ma quanti anni c'hai, scusa Giuseppe? 37. Ah, quindi eri giovanissimo. Ma e tu adesso giri in come? In macchina, quindi? Ora giro, sì, macchina e con lo scuserone. Però non è la stessa cosa. Perché, no, infatti stavo pensando ora di ricomprare la Vespa, perché non sai se... Guarda. È riuscita la nuova Vespa, 125 e 150. Guarda, io ti do un consiglio, Giuseppe, ti do un consiglio. È la Star che la fa. Lo so, ma io ti do un consiglio. Okay. Vai su eBay e vedrai che la mia è un bijou. Guarda, se arriva a te sono quasi più felice. Grazie Giuseppe. Okay. Buona giornata. Grazie anche ancora. A te, Matteo. Ciao. Bene, insomma, non ce l'hanno proprio fatta a tirarmi su, però io mi consolo con la lista dei miei desideri. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama, Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Sono le 16:28, abbiamo finito. Vorrei rispondere a Michele da Ferrara, che al 349-238-666 mi scrive: Giulia, l'hai rottamata o l'hai venduta a qualcuno? Ma preferisco non farlo, preferisco ringraziare tutti quelli che erano oggi al di là del vetro: Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Pietro Lacorte. Oggi è venerdì, quindi lunedì si ricomincia, è il turno di un altro oggetto a cui tengo parecchio, la mia videocamera digitale. È una videocamera della Canon, modello DC20, che registra direttamente su DVD. Quella di oggi invece era la storia della mia Vespa. Per vederla e comprarla il sito è radio24.it. E nonostante la titubanza iniziale e anche attuale, devo dire, anche l'oggetto di oggi è all'asta, perché alla fine anche una Vespa è semplicemente una Vespa.